Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Emergenza continua in mare ed anche a terra. Per un centro di identificazione ed espulsione che risolve almeno in parte i suoi problemi, ce n'è un altro costretto alla resa. È quello di Crotone, in Calabria, chiuso da 10 giorni perché devastato da un gruppo di immigrati dopo la morte per malore di un marocchino. Le tensioni erano cominciate nei giorni scorsi, culminate nella notte tra una trentina di immigrati, molti dei quali in evidente stato di ubriachezza, in una violenta e tragica rissa. L'ennesima nel CARA, il centro di accoglienza per richiedenti asilo, situato all'interno dell'aeroporto militare di Bari Palese. Questa volta ci è scappato il morto, un giovane curdo di 26 anni. È scoppiata una rissa nella notte al CARA, il centro di accoglienza richiedenti asilo di Bari. Un litigio sfociato poi in una vera e propria lotta armata tra i moduli della struttura. Ad essere coinvolti. Questa mattina parliamo di immigrati. Ne parliamo nell'accezione più nascosta. Dove stanno gli immigrati quando non li vediamo circolare per le strade, quando non li vediamo in contatto diretto con la popolazione italiana? Stanno in dei centri per l'immigrazione. Dei centri di immigrazione che sono articolati nel territorio attraverso varie tipologie, ci sono i CDA, centri di accoglienza, i CARA, centri di accoglienza per quelli che richiedono asilo, ci sono i CIE, centri di identificazione ed espulsione. Sono tutte strutture che dovrebbero avere una loro connotazione temporanea, dei luoghi in cui gli immigrati passano, svolgono alcune procedure e poi prendono quella che è la loro destinazione definitiva, ma spesso diventano dei luoghi stanziali, dove, perlomeno a quanto emerge da un fatto accaduto ieri, un'intervista fatta da un giornalista di Redattore Sociale all'ospite di uno di questi centri, che avrebbe detto che in realtà, in particolare era il CARA di Castelnuovo di Porto, quindi il centro di accoglienza richiedente asilo di Castelnuovo di Porto, una delle tante strutture che stanno sul territorio italiano, che avrebbe raccontato che all'interno di questi centri in realtà la situazione non sarebbe per niente accettabile, sarebbero come delle aree al di fuori dal mondo dove può accadere di tutto, dove accade di tutto, dove è difficile poi avere una reale certificata testimonianza. Perché? Perché i giornalisti non possono entrare. Quindi io inizierei subito a farvi sentire questa intervista che abbiamo diviso in due parti, alterando la voce dell'intervistato, che è un ospite, nordafricano, ospite del CARA di Castelnuovo di Porto, che ha raccontato quello che lui vede all'interno della struttura. L'intervista è stata fatta da Jacopo Storni, che poi avremo al telefono, che è un giornalista, è appunto l'autore di questo articolo che è stato lanciato dall'agenzia Redattore Sociale e poi ripubblicata da vari altri giornali. Gian Daniel, all'interno del CARA c'è anche la prostituzione, dunque, avviene sia internamente che esternamente? Sì. E chi sono le persone che esercitano la prostituzione soprattutto? Ragazza nigeriana. Quindi sono soprattutto nigeriane? Soprattutto le nigeriane, finiscono di mangiare, loro vanno nell'autobus, vanno fuori, dentro Roma, dentro non c'è donna, deve pagare per fare sesso. Questo è il primo accenno di questa intervista, in cui quest'ospite dice che in realtà delle ragazze nigeriane che esercitano l'attività di prostitute usano come loro dimora il centro pubblico di accoglienza e poi alla fine, perché il tempo comunque ha un suo valore, continua a esercitare anche con gli ospiti del CARA all'interno della struttura. Dicevi che c'è anche lo spaccio di droga all'interno del centro. Sì, c'è dentro il spaccio di droga, gli spinelli. Fumano dentro, anche dentro le camere. Nei corridoi? Nei corridoi anche. E gli operatori del centro lo sanno? Loro lo sanno, tutti loro lo sanno. Chiudono gli occhi. Chiudono gli occhi, tutte le gente conoscono. Una necessaria premessa. È chiaro, ma non c'è bisogno nemmeno che lo dico, che mi giustifichi. La mia storia professionale lo testimonia, che non è che questa mattina vogliamo alimentare o rinfocolare l'odio verso lo straniero. No, dobbiamo semplicemente capire meglio quello che accade in delle strutture comunque pubblicamente sostenute, finanziate. Non può essere che questo accada. Per correttezza professionale aggiungo anche che abbiamo chiamato i responsabili di questo centro che hanno preferito non rispondere. Naturalmente i nostri telefoni sono aperti, loro come qualunque altra persona, se cambiassero idea, possono raccontarci e spiegarci come mai questo ragazzo ospite di una loro struttura dice queste cose, è vero o non è vero, a loro risulta, non risulta, e se non risulta hanno fatto i debiti accertamenti per vedere se in realtà è una sorta di zona franca senza legge dove accade quello che normalmente fuori sarebbe più difficile che accadesse, perlomeno in maniera così impunita. 800 24 00 24, per chi avesse elementi da aggiungere o un proprio parere su quello che stiamo dicendo questa mattina. Jacopo Storni, buongiorno. Buongiorno a voi. Jacopo Storni è il giornalista di Redattore Sociale che ha fatto questa intervista. Innanzitutto, diciamo, l'unicità di questa testimonianza è data dal fatto che tu, non come chiunque di noi, non puoi entrare in questi centri. No, in realtà si potrebbe entrare, bisogna passare dalla prefettura, in questo caso dalla prefettura di Roma, ma solitamente i tempi per ottenere i permessi sono abbastanza lunghi, possono trascorrere anche dei mesi prima che venga rilasciato un permesso ufficiale da parte delle autorità competenti, appunto in questo caso la prefettura di Roma. Ecco, tu questo ragazzo invece come hai fatto a avvicinarlo e accogliere la sua testimonianza? Allora dunque, diciamo che questo fatto della microcriminalità all'interno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo è stato inizialmente denunciato nelle scorse settimane, inizialmente dall'ARCI. Ecco, fai bene a dirlo, scusami Jacopo, sennò sembra, dice, avete preso un ragazzo, vi dice una cosa, ne fate un caso. Non sarebbe, sarebbe superficiale questa lettura. Esiste già una situazione di allarme sollevata dall'ARCI da parecchio tempo e tu alla fine sei andato a vedere le carte, hai trovato un ragazzo e hai cercato, esatto, di avere la testimonianza, la prima testimonianza diretta su quello che accade. Esatto, per non basarmi esclusivamente sulle testimonianze comunque attendibili dell'ARCI, ho deciso di incontrare alcuni ospiti dei centri di accoglienza, in questo caso quello di Castelnuovo di Porto, a 30 km da Roma, e ho incontrato alcuni di questi ragazzi, tra cui quello che ho intervisto, e li ho incontrati proprio all'ARCI di Roma e mi hanno confermato quello che molte associazioni già andavano denunciando, cioè che di fatto all'interno dei centri c'è delinquenza, c'è microcriminalità, quindi non soltanto sovraffollamento, non soltanto sporcizia come denunciato da molti, non soltanto condizioni igieniche, sanitarie molto precarie, ma anche spaccio, soprattutto spinelli che vengono fumati nelle stanze, che vengono fumati nei corridoi, spesso sotto gli occhi degli operatori che gestiscono questi centri, e soprattutto anche prostituzione che avviene. Adesso, Dio, non voglio sembrare se fosse solo quello il problema, basta andare nei bagni delle scuole italiane, basta andare nei retrobottega dei negozi italiani, basta andare nei luoghi in cui di sera si riuniscono professionisti, non credo che sia solo negli spinelli, ma il fatto in sé che comunque non ci sia controllo, non ci sia nessun tipo di idea che sono dei luoghi di passaggio in cui le persone dovrebbero essere perlomeno tutelate nel fatto che non si trovino in delle sacche di delinquenza o di attività comunque al di fuori della legge. Ma chi sono gestiti questi centri? Questi centri sono gestiti spesso dalle associazioni, in questo caso l'associazione... Sono dei privati quindi? Dei privati, sì, in questo caso l'associazione che gestisce il centro è la GEPSA, che è una società francese famosa per la gestione delle carceri. Prima della GEPSA, al CARA di Castelnuovo di Porto, c'era la Croce Rossa. Poi c'è stata un'altra gara di appalto vinta appunto dalla GEPSA. Comunque hai detto bene tu, alla fine questi sono luoghi che sono come dei grandi paesi, che comunque sono lo specchio della società, dove per forza di cose una piccola parte della società tende alla devianza, quindi è naturale in qualche modo che ci sia delinquenza anche all'interno di questi centri. La cosa, secondo me, più grave, più allarmante è il fatto che tutto ciò avviene in un luogo che è, tra virgolette, istituzionale. In un luogo Poi io penso alla tutela delle persone immigranti che non vogliono stare a questa legge, perché se è una sorta di zona franca, di territorio senza legge, non tutti andranno lì per fumare droga o per esercitare la prostituzione, non sono tutelate queste persone. No, soprattutto perché questo avviene anche perché i tempi di soggiorno, i tempi di permanenza nei centri, che per legge dovrebbero essere di circa 6 mesi, si dilatano in modo esponenziale e molto molto spesso in questi centri si trovano immigrati che vi dimorano da oltre un anno, a volte anche un anno e mezzo. E quindi il limite di legge dovrebbe essere qualche mese, quanto? Sì, 6 mesi. 6 mesi. Fermati un attimo, Francesco, buongiorno, un ascoltatore. Buongiorno. Sì, io volevo intervenire anche perché insomma ho operato direttamente in questo ambito, quindi volevo intanto dare conferma a quella ragazza nigeriana che ha raccontato quelle cose. Era un uomo, abbiamo alterato nella voce per non farlo riconoscere. Pronto? Sì, sì, dico, era un ragazzo, abbiamo alterato la voce per non farlo riconoscere. Un ragazzo. Su sua Perfetto. Richiesta, sì. Sì, sì, sì. Ecco, racconti la sua esperienza, poi la integriamo con quello che ci dice il giornalista Jacopo Storni. Ma l'esperienza è né più né meno così come è stata descritta, cioè sono luoghi dove questi ragazzi si ritrovano, molti di questi inizialmente non sanno proprio come andare avanti nelle loro giornate, vengono di tanto in tanto aiutati in certi percorsi, non sempre l'organizzazione… Lei dove ha operato? In Piemonte. Cioè corrisponde a quello che abbiamo sentito finora, cioè tranquillamente ragazze nigeriane escono, fanno il loro lavoro per strada, poi tornano, arrotondano anche con i clienti del centro di accoglienza. E spesso succede anche all'interno degli stessi centri. Eh sì, quello che ha detto Jacopo Storni. Anche tra gli stessi immigrati, insomma. Vabbè, stanno lì insieme, che qualcuno si possa accoppiare fa parte della norma, bisogna capire se lo fanno per denaro o lo fanno, uno può anche conoscersi, fare amicizie, innamorarsi, quelle sono cose normali, non è che deve essere un luogo di castità assoluta, solo l'importante è che si capisca che non si eserciti una sorta di sottoracket interno nel centro di accoglienza. Quello no, però penso che insomma il capitolo della prostituzione insomma sia presente anche all'interno dei vari centri. Ecco. 800240024, come ci chiama Francesco, ci saranno altre persone che hanno informazioni, notizie, riflessioni da fare su questa realtà. Livia Cantore, buongiorno. Buongiorno. Livia Cantore, responsabile asilo dell'Arci Nazionale, sta a Bari, mi sembra lei, dove ieri c'è stata una rivolta nel centro di accoglienza. Si può avere qualche dato innanzitutto sulle persone che stanno in questi centri di cui stiamo parlando e poi, visto che l'Arci è stata la prima a sollevare il problema, quali sono i dati oggettivi in vostro possesso? Sì, io rispondo subito a questa domanda perché mi piacerebbe fare una sottolineatura rispetto alla differenza tra i migranti economici e i richiedenti protezione internazionale, perché le persone di cui stiamo parlando in questo momento sono richiedenti protezione, che quindi fuggono dai paesi per motivi di persecuzione o di guerra e quindi non lo fanno come una scelta, non è un'organizzazione. Sì, ma è un CARA, infatti ho detto è un CARA, è il centro per richiedenti asilo, sì. E quindi sono dei centri aperti in cui a gestione del Ministero dell'Interno, quindi di responsabilità della Prefettura e con appalto a soggetti privati come cooperative, vengono appunto accolte queste persone che, come lei diceva, sono ospiti. La problematica più grande è data dai grandi numeri. In Italia noi abbiamo 8 CARA, sono, dicevo, dei centri aperti e sono per circa 4.000 persone come posti ufficiali, ma sappiamo che poi alla fine, a causa degli sbarchi, i numeri sono anche più grandi. Le immagini che noi abbiamo avuto solo quest'anno, 6.000 persone sbarcate, 120 sbarchi nei primi 7 mesi. Sì, perché diciamo normalmente il cittadino italiano, che già atteggiamenti undivaghi rispetto a questo fenomeno, però non si rende bene conto di quello che accada dentro i centri, che sono luoghi frequentati unicamente dagli ospiti di questi centri, non c'è molta visibilità. Ma perché l'Arcia a un certo punto si è sentita in dovere di segnalare degli eventi non certo felici, che già nella difficoltà, nel sovrannumero, nei tempi esagerati di permanenza aumentano la difficoltà nell'affrontare questo problema? Tenete presente che rispetto a questi CARA, l'ARCI, come molte altre associazioni, noi siamo sempre stati contrari. Non c'è una legge organica sul diritto d'asilo, per cui possiamo fare riferimento solamente a degli articoli della legge turco-napolitano. Per cui l'istituzione di questi centri, che molto spesso appunto prevedono sovraffollamento, l'isolamento rispetto alla città e ai servizi del territorio, una mancanza reale di servizi all'interno del centro, oppure essendo dei centri aperti, fa che alla fine una grande concentrazione di persone comunque produca dei fenomeni anche di criminalità, pur essendo, sottolineo, dei luoghi a direzione delle prefetture. Per cui questa denuncia... Sì, questo che un po' fa riflettere. Vengono descritti molte volte come una specie di carcere, di luogo di contenzione, poi sapendo che dentro si esercita la prostituzione, lo spaccio di droga, viene da pensare, ma allora cosa sono? Non si capisce bene, sembra quasi una situazione delle peggiori situazioni all'interno delle carceri, quelle su cui abbiamo fatto molte trasmissioni, su cui tutti siamo pronti a indignarci. Sì, da anni i rifugiati, gli ospiti dei vari centri ci denunciano questa situazione. Noi non abbiamo realmente mai assistito ad un atto, altrimenti l'avremmo denunciato. Quello a cui assistiamo è proprio la mancanza di servizi all'interno dei centri, tanto da provocare delle situazioni anche di conflitti all'interno dei CARA, con per esempio la morte di un ragazzo, di un rifugiato un paio di mesi fa a Bari. Ma la rivolta che c'è stata ieri, per cui lei è a Bari? Allora, le spiego, noi dobbiamo fare riferimento ad una situazione ad una legge, si chiama legge Dublino, che prevede che la responsabilità per le persone che approdano sia del primo paese, quindi in questo caso l'Italia, per tutti quelli che sbarcano a Lampedusa o in Puglia, certo, in Calabria. Che cosa succede? Che appunto il paese competente per l'iter burocratico, quindi per il rilascio poi del permesso di soggiorno, sia proprio l'Italia, ma non sempre, anzi molto spesso, queste persone non vogliono vivere in Italia, vorrebbero raggiungere parenti o amici in Francia, in Gran Bretagna o in altri paesi, e invece questo a loro non è concesso. Allora, che cosa succede? Che dopo il rilascio del permesso di soggiorno per protezione internazionale, appunto rifugiati, loro vadano comunque negli altri paesi, non rispettando questa legge, quindi una volta identificati vengono rimandati in Italia e quindi ritornano a essere richiedenti asilo, casi Dublino, e rientrano nei CARA, e molti dei numeri all'interno dei CARA in questo momento è dato proprio da queste persone. Qui c'è una sorta di transumanza, stanno lì, prendono il permesso di soggiorno, poi clandestinamente vanno verso il paese in cui sperano poi di poter stabilire la loro nuova vita, vengono rimandati via e ritornano in Italia ancora, e questa cosa... Sì. Per quanti passaggi può andare avanti questo andirivieni? Non solo appunto per tanti passaggi, ma soprattutto poi l'Italia, per decidere che è competente veramente lei come paese, quindi dire alla Gran Bretagna o alla Svezia ok, e quindi ricominciare l'iter d'asilo, fa sì che queste persone stiano per mesi e mesi in questi centri. I tempi sono anche fino a un anno e ma mezzo. Ma cosa fanno in questi mesi? Come passano il tempo? Perché poi alla fine uno dice, beh, avendo davanti intere giornate per mesi, il tempo in qualche maniera devono passarlo. Il tempo è lunghissimo, il tempo non passa mai, non ci sono se non pochissime attività all'interno dei CARA. E quali sono le attività, ad esempio? Le attività all'interno dei CARA è soprattutto nella sala mensa un televisore, o comunque loro che si attrezzano con delle attività, ma soprattutto loro, essendo un centro aperto, possono uscire e usufruire dei servizi all'esterno. Ma con che risorse? Escono senza un soldo in tasca, che fanno? E in genere appunto passeggiano per la città o si ritrovano anche in situazioni di richiesta di elemosina, per esempio. Perché è vero che hanno 30 euro al mese per prendere il biglietto dell'autobus? Dipende dai CARA, alcuni CARA mettono a disposizione un servizio di trasporto, altri danno delle tessere, sì. Fermiamoci un istante, informazioni della borsa 800240024, cerchiamo di capire cosa succede al centro all'interno dei centri per l'immigrazione sono le strutture che accolgono e assistono varie tipologie di migranti. Melog, la realtà condivisa. Una fuga in massa si è verificata dal centro di identificazione ed espulsione di Restinco alle porte di Brindisi. 18 tunisini sono riusciti a dileguarsi nel corso di scontri con le forze dell'ordine che hanno provocato il ferimento di 11 tra poliziotti, finanzieri e militari del reggimento San Marco. La rivolta si è protratta per alcune ore all'interno della struttura ed ha visto coinvolti gli 84 ospiti, tutti provenienti da Lampedusa. Erano circa le 2:30, secondo alcuni ospiti del CARE svegliati dal caos. Si sono sfidati a colpi di coltello, curdi da un lato, pakistani e afghani dall'altro. Da una prima ispezione esterna sul corpo della vittima... Cosa sta accadendo all'interno dei centri per l'immigrazione in Italia, che sono di varie tipologie, li stiamo analizzando. Una testimonianza raccolta da un giornalista e redattore sociale parla di episodi di spaccio di droga, di prostituzione, anche se poi mi sta chiedendo un ascoltatore, dice: ma con che soldi pagano le prostitute se sono lì e non hanno denaro? Anche questa magari è una domanda che ci si potrebbe fare, ma poi si parla di rivolte, si parla comunque di difficoltà nel gestire il fenomeno dell'immigrazione, al di là del discorso più ampiamente sociale, di consenso pubblico, di malessere sociale, di peso su certe realtà nazionali, c'è anche poi quello che accade all'interno dei centri. Armando, buongiorno, un ascoltatore. Buongiorno, io sono Armando e chiamo da Bergamo e sono stanco, ma più che stanco sono imbufalito. Stanco di prima mattina, andiamo bene. Sì, no, mi fate imbufalire con questi programmi qua che... Non lo so, tutto quel buonismo, tutto quel... Non bestemmi, stia attento. Finora ho sentito solo poverino qua, poverino. No, poverino è una parola, non è mai stata pronunciata in questa trasmissione. Sì, ma è come, non mai pronunciata, però c'è sempre stato come sottinteso. No, è sbagliato. Guarda, ha capito male. Lei è eccessivamente carico di rabbia e questo non la fa ragionare. Non l'ha detto poverino, anzi sto facendo qualcosa al limite dell'essere accusato di razzismo, dico che all'interno dei centri... Allora va bene, certo. Adesso ragioniamo. Iniziamo già a essere un po' stanchi di tutte queste cose qua. Scusi, ma io di mestiere faccio giornalista. Esatto. Mi arriva la notizia che all'interno dei centri per l'immigrazione si eserciti la prostituzione, lo spaccio e la droga, voglio di questo discutere, ragionare, esatto, approfondire. Ma sì. E allora dov'è il problema, Armando? Ma il problema è che la gente adesso è stanca anche di quei centri. La gente è stanca. Lo so. È stanca perché siamo stanchi di mantenere tutte queste zecche, qualche ci attaccano. Vabbè, zecche, no, zecche è una parola, usi parole diverse. È così. Ma lo sa perché? Perché sì. È segno di civiltà usare anche termini adeguati, anche se, se lei pensa che le danno fastidio. Io ho girato parecchi anni in Medio Oriente per lavoro e mi è sempre toccato abbassare la testa e fare come dicevano loro. E basta, senza star lì. E noi cosa succede? Noi dobbiamo sempre, per non essere accusati di essere razzisti, dobbiamo sempre abbassare la testa ancora con loro. No, però guardi, Armando, questo è un suo modo di pensare. Ma il problema oggi è un altro, non è la solita trasmissione che si fa, che lei può avere conto. È una trasmissione in cui tecnicamente si entra in merito alla gestione dei centri per accoglienza. È un passo avanti. Mm-hmm. Vorrei capire esattamente, siccome questi centri costano, siccome questi centri sono finanziati, vorrei capire come mai all'interno di questi centri avvengono episodi di questo tipo. Solo questo mi domando. Perché siamo troppo buoni noi per quello che succedono. Ma quale sarebbe la soluzione secondo lei? La soluzione è facciamo Armando, tutti gli altri stati. No, Armando, alziamo la voce, questa è un'altra trasmissione. Mettiamo caso, per ipotesi assurda, le do in gestione un centro per l'immigrazione, lei è pagato dallo Stato per gestire questo centro. Quali sarebbero le regole che lei applicherebbe all'interno del centro? Vediamo così. Siamo quelle che ci sono a casa mia. Faccia un esempio. L'educazione per prima cosa, non spaccare su tutto e pretendere. E pretendere poi che si costruisca o si dia cose migliori. Quando quindi farebbe una regola di comportamento rigida all'interno. Come a casa mia, no, come se c'è a casa mia con i miei figli, uguale anche a loro, però non possono fare di più. cosa succede? Cioè, sono tante le cose, ma voi non la capite che... No, guarda, Armando, lei sta dicendo una cosa corretta, mica ce l'ho con lei. Lei dice, sì, all'interno di questi centri dovrebbe esserci comunque, visto che sono centri di accoglienza, si accolgono persone, anche rifugiati politici. Sì, dovrebbe esserci... ce ne sono. Vabbè, lei, concordo con lei, ha detto una cosa giusta. Vedi, era partito arrabbiato, ma ha detto una cosa giusta. Ci dovrebbe essere, l'ha letta con le parole sue, una regola, un metodo comportamentale per cui queste cose non dovrebbero accadere. Se accadono, ci poniamo la domanda, perché vengono affidati i centri a chi fa accadere queste cose qua? Perché non c'è necessaria sorveglianza perché non accadono, ma per tutela chi sta dentro soprattutto. Diego, buongiorno. Nicoletti, buongiorno. Sì. Guardi, proprio mi voglio ricollegare a questo ultimo intervento. Secondo me, fin tanto che questi centri saranno gestiti e organizzati in questo modo, quello che poi vi accade dentro mi sembra proprio il minimo che possa succedere. Quindi se ci scappa una canna o un rapporto sessuale anche a pagamento, credo che proprio per trascorrere questo tempo parcheggiati lì dentro, il problema è che forse non abbiamo in mente niente di altro rispetto a questi lei temi. Dice gioco forza, inutile scandalizzarsi, gente che sta anno chiusa dentro, alla fine li teniamo lì buttati per 6 mesi, un anno e mezzo, ma mi sembra proprio, come diceva lei giustamente all'inizio, lo vediamo in qualsiasi altra circostanza anche italiana questo. Il problema è che non abbiamo nessuna idea su cosa fare di questa gente e quindi... Ecco, c'è una mancanza di progetto, dice... Però, assolutamente sì, e poi contemporaneamente... Comunque nei CIE ci sono stati morti, c'è stata gente che c'è rimasta secca. Quindi, non è che... appunto, perché dopo scatta l'ubriacatura, scatta la rissa, si scappa il morto, sfasciano tutto. Mi sembra assolutamente normale, visto che noi non abbiamo nessun'altra idea che quella di prenderli e parcheggiarli a tempo indeterminato finché non scappano o si ammazzano, o eccetera. Lei dice gioco forza che mettere in condizioni di promiscuità delle persone che poi vengono da situazioni drammatiche. Succederebbe anche a un gruppo di italiani. Accadrebbe anche a me, a lei, in Tonti, Chiappini e Rocchetti. Ci mettessero in un centro per un anno, alla fine andremo a cercare donne a pagamento e ci faremmo canne. Però poi, contemporaneamente, io sono stato in vacanza in Puglia e sappiamo tutti che noi consumiamo regolarmente i pelati che vengono raccolti da masse di migranti che vengono però sfruttati da italiani o da bande di italiani che li prendono. Sì, teniamoci al problema, non è che voglio eludere, ma questo è un problema che ha almeno 25 anni di storia. Abbiamo un altro ospite, Christopher Hein, buongiorno, direttore del CIR, Consiglio Italiano per Rifugiati. Buongiorno a voi. Buongiorno, è la ONLUS che ha l'obiettivo di difendere i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Ho letto una sua intervista dove lei, come se non bastasse il problema che ci stiamo ponendo, fa già delle profezie, dice con la crisi che c'è in Siria stanno arrivando centinaia di siriani sulle coste della Libia, ce ne stanno 130.000 e diciamo il loro scopo è poi arrivare da noi, quindi oggi parliamo di due canne e di una forse presunta marchetta, ma presto dobbiamo parlare anche di altre cose, sono troppo apocalittico. Innanzitutto vorrei dire che apprezzo molto che Radio 24 dedica questa trasmissione al tema dell'accoglienza dei richiedenti asilo, dei immigrati, anche ai centri di detenzione degli stranieri. Mi sembra un gesto molto importante, è importante che l'opinione pubblica sia informata puntualmente e anche da vedere che il contribuente italiano paga per il mantenimento di questi centri. Vorrei dire, riallacciandomi al dibattito che ho sentito adesso, non è che non ci sia alcuna progettualità, non si è parlato, mi sembra, in questa trasmissione di un altro sistema italiano di accoglienza di richiedente asilo, cosiddetto SPRAR, sistema di protezione per richiedente asilo e rifugiati, è un sistema che è nato precisamente con la legge Bossi-Fini del 2002 e che vede il coinvolgimento di ormai più di 170 enti locali, comuni e province, dove in piccoli centri dislocati in tutto il territorio nazionale vengono ospitati richiedenti asilo. E questi gestiti da chi? E sono gestiti poi da enti di tutela, enti del privato sociale, in convenzione con i comuni. Ma chi sceglie se io immigrato sono destinato a un CARA, a uno di questi centri che dice lei? Questa è un'ottima domanda, perché effettivamente perché mi sembra che quelli suoi è il corrispondente di un albergo a 3 stelle rispetto a una pensione malfamata. Esattamente, e se vogliamo rimanere nel quadro abbiamo anche qui a Roma centri di eccellenza, il centro Enea per rifugiati richiedenti asilo di 400 posti, dove c'è un servizio direi ottimo. Ecco, ma il contribuente costano nella stessa misura i centri, diciamo, dove accade di tutto e quelli controllati? Scusi se radicalizzo, per far capire agli ascoltatori. Ma fino a poco tempo fa la permanenza in questi megacentri governativi, questi CARA, erano molto più costosi che in questi piccoli centri a cura dei comuni e delle associazioni. Quindi costa di più una situazione incontrollata e scadente piuttosto che una situazione civile, decente, che fa onore al paese che la mette in atto. Abbiamo una normativa che non viene rispettata, questo è il problema. Vorrei correggere chi ha prima detto che la permanenza nei CARA potrebbe anche essere di 6 mesi. Non è vero, la legge dice che la permanenza nei CARA, come centri di primissima accoglienza, non dovrebbe superare 35 giorni. Un mese, un mese. Questo non è mai successo e giustamente si è detto che la permanenza media sono 8 mesi, in molti casi anche si arriva a 18 mesi, con un costo enorme e con un abbandono di queste persone che stanno lì non facendo niente, di aspettare che un giorno arrivi una decisione sulla loro richiesta di asilo. Quindi lei ci fa capire, Christopher Hein, che in realtà esistono delle soluzioni che sarebbero le soluzioni civili, ma esistono altrettanto onerose soluzioni, forse più diffuse, che sono quelle su cui stamattina stiamo riflettendo. Ma certo, ma questo a chi conviene alla fine? Ma certo che esistono e devo dire c'è anche un'evoluzione positiva. Il Ministro dell'Interno ha potenziato questo sistema decentrato di accoglienza da inizialmente 3.000 posti, sulla scia anche dell'emergenza Nord Africa del 2011, ha attualmente quasi 8.000 posti. È stato emesso un bando per i prossimi 3 anni che parla di 16.000 posti, quindi questa è la strada maestra, questa è la strada di imboccare. Quindi c'è una proposta anche da parte della mia organizzazione, il Consiglio Italiano per i Rifugiati, molto preciso e da molto tempo. Primo, i centri grossi governativi devono servire solo per un primissimo momento di accoglienza dopo Lampedusa o dopo le altre località, ecco, di sbarco. Parliamo un attimo dei centri di identificazione e espulsione, i cosiddetti CIE, dove le persone possono stare il tempo necessario per essere identificate e eventualmente essere rimandate nel loro paese d'origine, ma questo sembra teoricamente facilissimo, ma in realtà molte volte è di enorme, estrema difficoltà. Vorrei dire che i CIE, centri di identificazione e espulsione, che sono veri e propri centri di detenzione amministrativa, è il contrario. Perché da lì non possono proprio uscire, perché sono quasi detenuti. No, sono vigilati 24 ore per 24, sono dietro le sbarre, vengono descritte, e lo posso anche testimoniare della propria visita che ho fatto in tutti questi centri in Italia, che sono certamente peggiori che qualunque carcere che abbiamo nel territorio. Questo è un dato di fatto, non a caso anche dai 13 centri di identificazione e espulsione previsti, attualmente sono funzionanti solo 7, perché sulla base anche delle rivolte alcuni centri sono stati o permanentemente chiusi, come quello di Brindisi, o temporaneamente allora, fermiamoci chiusi. Solo un istante, Christopher Hein, perché devo dare la linea alle informazioni del traffico, poi riprendiamo, perché mi interessa capire alla fine, vorrei anche sapere come si comportano i paesi nel resto d'Europa, perché abbiamo esposto una nostra situazione con lampi di luce e grosse aree oscure. Vorrei sapere cosa fanno gli altri. Melog, la realtà condivisa. 800 24 00 24. Mi fa piacere osservare che parlando pur di un problema che desta molte volte stati d'animo virulenti, nel seguire questa trasmissione il pubblico assume una posizione matura. È un'occasione per capire di più, per sapere meglio, per avere nel dettaglio quella che è la situazione dei centri di accoglienza. Sono due grossi filoni, ve l'ho detto, fondamentalmente. Sono quelli che accolgono i richiedenti asilo, che molte volte, nella maggior parte dei casi, o anche in tanti casi, sono persone che vengono da paesi in cui rischierebbero nel ritornare, quindi sono emigrati che richiedono asilo, e ci sono i CIE, dove sono gli emigrati clandestini che sono entrati clandestinamente, che ci stanno, dovrebbero starci il tempo necessario per le procedure d'uso e poi dovrebbero essere rimandati ai loro paesi d'origine. Abbiamo iniziato con una situazione all'interno dei CAR, restando queste persone, dovrebbero starci un mese, in realtà arrivano a starci anche fino a un anno, non hanno come passare la loro giornata, non hanno come passare il loro tempo, molti mi scrivono, non è che pretendono gli alberghi a 4 stelle o il Grand Hotel, però visto che c'è una situazione noi la registriamo all'interno di questi centri, come ci ha detto il giornalista di Redattore Sociale, come ci ha confermato l'Arci, è una sorta di zona franca, di isola infelice dove può accadere di tutto, la gente passa giornate anche facendosi canne o usufruendo delle prostitute che durante il giorno esercitano e la sera arrotondano con i loro compagni. Gli altri invece sono i CIE dove la situazione, come ci ha detto appunto Christopher Hein, situazione di detenzione in molti casi anche che va oltre quelle che sono le regole di un paese civile. Su questo magari ci dice qualcosa in più Gabriella Guido. Gabriella Guido, buongiorno. Buongiorno a voi. Gabriella Guido è coordinatrice della campagna Lasciate CIE Entrare, che si occupa delle condizioni di vita proprio nel CIE. È un'iniziativa che le ha permesso di visitare molti CIE e vediamo se sinteticamente riesce a darci l'idea di cosa siano questi centri. Sì, intanto buongiorno, ci tengo a ricordare che la campagna è iniziata 2 anni e mezzo fa, quando l'allora ministro dell'interno Roberto Maroni emanò una circolare che vietava l'accesso agli organi di stampa, per cui non si poteva andare a vedere, non si poteva quindi raccontare e veniva di fatto vietato il diritto di cronaca. Perché? Perché ma chi vige entra... ancora questa norma Maroni? No, grazie alla campagna l'allora poi ministro Cancellieri l'ha abrogata. Noi chiedemmo anche al ministro Cancellieri, perché Maroni aveva esteso a 18 mesi anche il periodo massimo di detenzione amministrativa in questi centri. Questi centri, per chi ha possibilità di vederli, anzi io invito ufficialmente Radio 24, Nicoletti anche lei, a venirli a vedere e a raccontare, voglio dire, video ne siamo riusciti a farne, reportage. Ma è proibito girare all'interno dei centri? Allora, bisogna richiedere l'accesso al Ministero dell'Interno, per cui tramite le prefetture si fa richiesta, però di fatto gli organi di stampa spesso hanno molte difficoltà ad entrare, non vengono dati permessi o viene risposto. Vabbè, ci racconti lei, visto che siamo alla radio, la radio va per certo. Immagini mentali, quello che ha visto lei e quello che reputa lei che possa essere cambiato o migliorato? Allora, cambiato e migliorato, la campagna ha una posizione molto netta, cioè i CIE, i centri di identificazione ed espulsione vanno chiusi perché sono, fra l'altro, abbiamo dimostrato quanto siano inutili, efficaci, costosi da un punto di vista economico, ma anche dal punto di vista... Beh, questo può essere che sia una delle condizioni per cui ci sono, che siano molto costosi, Beh, esatto, noi abbiamo denunciato un po' il business dell'immigrazione, ho ascoltato l'intervento di un ascoltatore prima. Allora, il servizio che viene prestato all'interno dei CIE al migrante irregolare è un servizio pessimo, scadente. Lei sa quanto costa alla cosa pubblica un immigrante irregolare al giorno in un CIE? In un CIE, allora, dipende dalle gare d'appalto che fanno le prefetture, gare d'appalto che sono a volte anche per aggiudicazione diretta, per cui non ci sono dei veri e propri bandi aperti. Li vincono delle ONLUS, degli enti gestori cosiddetti, che sono diciamo consorzi e che quindi prestano un servizio, hanno dipendenti e svolgono il lavoro all'interno di questi centri. Sì, ma un dato crudo, quanto costa un immigrato al giorno in uno di questi centri? Allora, andiamo dai 32 euro ai 27 euro. E deve essere compreso tutto, anche l'assistenza sanitaria, che invece è molto molto carente, e i pasti. Ma qual è il margine a questo punto della ONLUS? Se costa 27 euro, che mi sembra che sia il minimo per mantenere una persona. No, ma non ci sono coperte, non ci sono letti. Un 27 allora, euro al giorno. Dire, sa perché si ribellano? Perché spesso non ci sono i tavoli per mangiare, mangiano per terra, gli vengono dati dei pasti preconfezionati. Ma io penso, allora, deve esserci un margine di guadagno lecito per la Onlus che si occupa di questo. Se il costo nudo è 27 euro a persona, non mi pare che sia un'operazione molto conveniente farlo. Chi lo fa, allora lo fa per volontariato, perché è una brava persona. Beh no, perché si specula, io devo dire purtroppo a Gradisca c'è un procedimento, un'indagine in corso dove sono indagati l'amministratore delegato di questo ente ma anche un viceprefetto, perché purtroppo si specula sul numero dei migranti all'interno, perché se io faccio una falsa fatturazione dicendo che ho 300 immigrati anziché 100, beh ho un margine di guadagno pulito. Purtroppo non posso dire che certamente tutti gli enti gestori praticano, però accade anche questo. Allora, guarda, fermiamoci, allora... visto che la sollecitazione a continuarsi a occupare di questo problema è feroce, almeno entro la fine di settembre ci torneremo, perché mi sembra l'abbiamo soltanto lambito e forse merita un'ulteriore riflessione. Alla prossima.